acceso, sì. Luca, Luca, flip, Luca. Luca, Luca, ci sei, Aci? Luca, ci sei. Canale 10. Franco, oh Franco, Franco, oh Franco, rispondi. E io già ci sono, sei tu e non ci sei. Ma ti imbrasso il cartellino? Io lo timbro sempre il cartellino, il mio è sempre attivo. Vero, stai strisciato. E allora, cavolo, se sei tu, mandi il messaggio, poi non rispondi e cosa vuoi? Babbo, ci dobbiamo mandare i messaggi sul telefono, che per carità, davvero, davvero. Eia, dov'è questa la modulazione? Aspetta che ho alzato un po' il volume, prova. Vedi a vedere com'è questa la modulazione. Ah, va bene. Questo è il microfono originale del K. Sì, va bene. Cioè, è pulita anche. Eia, bene, meda. Sì, vabbè. Anche questi sono... sono Hawk. Sono Doc? Hawk? O, Do, B, è sempre lo stesso. Nicky, te qua! Ah, tanto ho messo questo qua a vedere se funzionava. Era tanto tempo non lo mettevo più, e funzionava più. E quelli durano una vita, per forza, non si usano mai. Questo mi rilasci fermi e poi non funzionano più. Invece questo non funziona più, anche i comandi della, dei canali. E up and down, up and down, e up and down. Up and down, up and down. Ma piove? Lascialo piovere, a me va bene. Ci vuole un po' d'acqua. Così non uso la doccia. Buon di carriera, di buono. Tanto, con l'affare che ci hai messo sopra, si fa la filtro. Sì che ce l'ho vaporizzato. Io quella l'ho comprata per metterla nei vasi di frutta. Ah no, che c'è una ringhiera anche. Certo, magari è bello. Quelle torretti le usano anche a mettere nelle ringhiere, nelle ville. Sì, ma qua non la puoi comprare questa, io l'ho comprata su eBay, perché ne ho preso 20 metri di lunghezza per 3 metri di altezza. Prova a indovinare quanto l'ho pagata io. Io se fosse la tua, cosa l'avrei pagata? Una trentina di euro. Domani, trentina di euro, manco un occhio te la posso dividere. 20 metri di lunghezza per 3 di altezza e 40 euro l'ho pagata, spedizione compresa, ma bella robusta anche, bella fitta. Vai compagno Giaino, che vai, da 3 metri di altezza. Cosa non costerà? Io posso andare dai miei gusti, fai al consorzio o la paghi molto di meno? Anche al consorzio la paghi un bel. La compravo io lì in via Diaz. Via Diaz. Oh, mi pare la trasparente, fra. La trasparente. Questa invece è bella fitta, bella grossa. Cazzo. Io ho preso un rotolo, ne ho preso, adesso non mi ricordo neanche quanto l'ho pagato. Un rotolo però è 2 litri per... non so quanti metri sono veramente, non me la metto. Non so un qualcosa, però è doppia, è doppia. E io l'ho presa, l'ho aperta, ed è bella fitta, e mi ho rivestito le casse di legno per me fino a ieri. Che è questo? Ma non l'ho pagata, non ho pagata molto. Io penso una decina di euro, mi sembra. Sì. E l'unica è il consorzio, sulla catturare la bricoma è cara. Se tu vai, se tu vai la bricoma è un negozio, è un coso, un rivenditore, qua c'è la confusione, è tutto diverso. Sempre qualcosa in meno la truffa. Chi ha pagato? No, questo va bene. Qua infatti non ce n'è. Non ce n'era, allora c'è la ferramenta, però ce l'ha 2 metri e ne voleva, mi sembra 3,50 al metro, cosa del genere. Ecco, vabbè, è un bel caro, io un giorno lì da, cosa sai dopo? Mi dà le posto proprio, secondo me c'è quel tipo bricco cina o un ragazzo, e lì stava prendendo un pezzo di plastica, un pezzo quadrato gra, un metro quadrato gra, costava anche 40-45 euro, un macco. Ma di plastica o policarbonato? Plastica, quello appena più grossetto, no? Stavo prendendo, per fare delle cose, dei cose banali anche già dove c'è la mola. C'era anche bricco, ma quello. Infatti, ma non vedo più altro che aveva bricco. Stavo prendendo lì, lo stavo prendendo. Ma non so stare, ovvio. Ho detto, vai, devo chiesto di nave, ne piglio su domanda. Io ce l'ho, se ti serve un pezzo. Tanto lo uso per coprire il bracciere, il buco. Oppure c'è anche un pezzo di policarbonato. Vedi, vabbè, ma è già meno bisogno. No, devo fare. Hai visto nella mola di banco che c'è il coso? Ci sono rotti tutti i vetrini che c'erano, no? Se no arrivate agli occhi lo stigio. Vorrei fare pannellini da banco. Ah, ma ti serve sottile sottile, no? Quello che ho io sarà 4 mm. No, quello è troppo grosso. Ma mi sembra che torniamo anche più sottile. Già ti ho capito, anche a me mi si è rotto. Io ho quella mola da banco per affilare i coltelli, eccetera, eccetera. Orba. Mi si è rotto anche a me. Ecco, infatti sto prendendo la foto per farlo. Sto prendendo, adesso ne prendo un metro, ne prendo, tanto lui già non è mai perso. Quando si fascia di nuovo, oppure non si vede più, si lo ricambi. E invece, questa è la luce. Adesso quando capita il caldo da bricolo, se prendo la bricola, questo mi porta di meno. Sì, ma c'è anche il policarbonato sottile da bricol. Però se ti serve plexiglass. Trasparente mi serve, perché ce devo vedere, no? Sì. Non è che mi metto una cosa, se no abbiamo avuto una questo giorno, avrei fatto anche un pezzo della mia via, ma se ti devi vedere meglio, dove c'è la il disco. No. Così trasparente non è, no. Quello che ho è pubblicità in base della telefonia. Ma si è attaccato tutto, non è arrivato ancora, ma non arrivare l'ultimo, Ah. E il numero non ce l'hai. Qual è il numero? Dov'è? Ah, io non lo so, a riparare, non lo a riparare. Se ce l'hai, no, com'è tu? Qual è il numero che devi digitare? Che cosa mi gioco? Non so, non so neanche che corriere. Mandamelo sul telefono. L'hai visto? Vedi, un attimo, che te lo dico subito. È bello. Aspetta. No. Luca, mi stai chiamando? No, ma deve essere una giornata ancora. E Luca? Chi sei? Tra il 6 e l'8. Cavolo. Prova, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3. 1, 2, 3, 4, 5, prova. Ora, 1, 2, 3, 1, 2, 3. Attenzione Tonino. Attento Tonino. Vabbè fra, ci sei entrato. Cosa? Ci sei entrato? Sì, l'ho visto. Così dal link lo puoi vedere direttamente anche domani, capito? Ti ho mandato il link apposta. Sì, l'ho visto. Tutto a posto, va. Beh dai, noi già non fa niente comunque, no? È così. Siamo passati in Biligishu. Fra, non c'è problema. Non c'è problema, intanto c'è, ma è come che non c'è, capito? Passa che la gira a te se ho pigliato io. No. Aspetta che la roba qua sta aumentando e a me non mi piace. Così va bene. E apri la porta. No, no. Man mano che scalda questo comincia a aumentare, E poi da sovesci. Se mi la... Sembri la troppa confidenza, così è? Sì, infatti. Bello, eh? Aspetta, non sta aumentando. Era staccato il coso. Stasera un po' con il mercatino buio. Sì, prima zecci è meglio. Sì, è inverno, fra. È quello che pensi tu, non è così. No, vero? No. Infatti fai un po' di spazio però fra quando. Se no se c'è qualcuno che vuole entrare. Benissimo. Perché siamo in estate. Che è l'estate, cos'è? Letargo fa benissimo. No, d'estate ti dicono che c'è caldo, c'è appusato, d'inverno ti dicono manca gamma non ha dratto, allora mi tocca tirare la beccia, chi entra a guardare la stufa, e qui e là. Portate le salvagge. Per carità! Portate per salvagente. Portate per salvagente. Emanuele. Ciao fra, per sentire tutti e due, dai. Facciamo Emanuele. Sentivo basso e basso. Invece ho aumentato un po' il volume che sento bene adesso. Andare. Vedi? E Luca dice che non c'era mai nessuno, vedi? Sì, chissà quante orecchie ci sono qua. Luca! Questo è! Alecce ha un nome! Alecce di buco! Non c'hanno voglia di schiacciare il microfono! Perché siamo all'estate! Una baraura, Una baraura è un sogno! Non è la propagazione, sta calando comunque! Una cosa che c'ho sotto sull'FM c'è questo, si sta di francese, di rinimare a gusto, mi sto prendendo a fritto. E a chi sa che poi abbiamo rubino buono. Se le mosche su cano now, e tu vai ammazzare in banda laterale, vedrai che si spostano. A posto, sotto. E dopo vanno i bip, lui, a te, muori. Già li sento già. Questa è migliore la modulazione. La mece 60. Davvero. Questo è un coso, una mente di gemma, un MB più 4. Ragioni hai. Aspetta, ti faccio sentire. Aspetta un attimo. Vabbè. Questo è l'MB più 4. Attaccalo perché è solito. Questo è l'MC60. Gli senti sul modulo tu qui a bip. Perché il bip pure si sente? Quando è schiacciato che hai messo il compressore. Sei avanti a gonfiarmi le ruote, infatti. Sei sentito. Non vi si può dire nulla a voi. A me adesso pure i Jimmy. C'è anche il coso, il Mike che ha 6, 5, 4, 3, 2, 1, mi senti così fra? A voglia! Adesso a 0, Mike che. No, mettilo com'era, a 6 mettilo che è migliore. Manuel, ma tu mai le dici? Sto guardando una cosa qua al telefono, tu senti, comunque che fai? Sto capendo qua. Io penso. Cazzo, ma un sole, no, che ancora. Ma che male me ne sono obbligato a chiudere la terra tutta bianca dalla neve? Sì, è dalla neve. Come che? Luca. E anche qua mi è piccato, dalle ascelle. C'era la forfola di Cacchirù, ma che mi è piccato, eh. Oh, io. Vabbè, dai, ma ci vuole anche questo. Cioè, nonostante li copri tu tutti i giorni, ma che? L'ubiuva lo deccia sempre con lo spolverino. Quello colla, eh. Ma dimmi una cosa, Luca. Ma tu... il CR20 che ci arriva era solo scanner, però non andava in trasmissione. No, se è uno scanner non va in trasmissione. Tu balavorendi, però qui su quello Baufeld non deve balavorare, a chi ha giudicato il tuo canto di cosa dirò non ci arrivesti il canto è micidiale. Ma se te lo sto dicendo, non va in trasmissione, è solo un ricevitore. No, è un bel ricevitore, porca miseria. Guardati qualche video. Già ho visto. Ho letto anche cose del manuale che... Caspita, non mi vogliono da poco le cose, no, ma è... Fate voi, la leggenda di trasmissione è solo un ricevitore, non va in trasmissione, in effetti è così. Se te l'ho detto che lo usano anche quelli là, proprio perché è un grande ricevitore, a parte, vabbè, quelli da base tipo l'8005, quelli lì. Ecco, sì. Aspetta, da qui mi sono ricordato perché l'ho visto dove l'avevo scritto, e sono rientrato della Giambaida. Bello, veramente bello. C'è una velocità che non fa in tempo a premere la scansione, che... E poi va 200-400 canali a secondo. Ecco, e perché te l'hai venduto? Non me lo ricordo, se avevo preso un HF, non me la metto proprio. Perché comunque il suo prezzo all'epoca era ancora 350 euro. Si poteva vendere tranquillamente, infatti l'ho venduto subito. Ecco. No, è una bella... Adesso non si trova anche più un poco, si trova. Però... un bello scanner quello lì, è facile, e ragazzi bari pigliava pure me. Sì, via. E poi c'ha tutte le bande anche, quello sì, è bello. Ginko, che ti dammi chi sono? Certo, con questa parola pigliamo una vita, ma in brecca, grazie, ghiacciate. No, metti quasi male. Porca miseria, c'è lì. E che altro buono frigo che vi sopra? E nemmeno buono. Un pozzetto di buono. Pozzetto buono. Un pochetti. No, volevi rabbia croccante. Così è andarsi da quei carca. Allora Marco, ciao, ti si trovi. Ok, allora devo aspettare la giovedì. Va bene. E sto basso controllo a dirlo più tardi, magari lo devo sicuramente da aggiornare ancora. Perché ho visto la data, probabilmente è da aggiornare quello ancora. E per lì devo guardare, dove me l'hai mandato? Nel link, il link devi aprire, non l'altro. Ah, ecco. Sì, l'ho aperto il link, l'ho aperto. Aprirò più tardi. Magari lo aggiornano in queste ore. E giù c'è scritto cerca. Cerca. Copiate il numero, no? Il numero del codice a barre. Ah, tu hai messo il numero del codice a barre? Quello devi mettere. C'è già scritto il codice a barre sotto. C'è scritto nuova ricerca per barcode. No, ma tu devi aprire direttamente il link. E ti fa vedere quella pagina lì. Man mano che si aggiorna ti fa vedere gli aggiornamenti. Una volta che esco lui si chiude, poi la riapro. Sì, riapri il coso e lui si aggiorna. E ti fa vedere l'evoluzione della specie. Ehi, va bene, ma se c'è scritto così ti arriva giovedì. Ma quella è una data del 31, sto cercando di guardare ogni tanto, capito. È una data del 31 quella, mentre non. Sì, sì, infatti li guardo lì, dopo più tardi guardo. E sono lenti a aggiornare a quanto pare questi. Va bene, va bene. Ginko! Sì, rimanga in ascolto, dai, prendete voi, rimanga anche lei. Guarda che potete poi ripescare mi, se c'è molto caldo. Prendi la vacca da bagno, se c'è la vacca da bagno, la riempi di birra. Non sto più bevendo. Non è che devi bere tanto, no? Basta appena appena assaggiarlo. Neanche, niente, ce l'ha fine. Ai. Ma sei come te Luca danno, no, in briagone. Penso di come ero di birra piano una pazza assaggiarla. Poi si sgazza a quanto sta a riempirla, pucci. Però una volta che tu sei dentro, ci pesci dentro la casa di nuovo. Vabbè via. Poi ti fa troppa schiuma e non sai di quale. Infatti non te ne accorgi. Si scalda solo un po'. Vabbè via. Di birra scura, lì. Buonarigia, io mi ricordo quando eravamo in Corsica a Bastia, entravamo in questo bar, entravamo sempre, cara, birra nera, quella oscura, buonarigia, io. L'ho fatta io un paio di volte quella, a parte le bionde, però ho fatto anche quella e mi era venuta buona lo stesso. Fate sabù da vapo. Io bevevo un bel bevevo, io a posto della birra normale, tradizionale, bevevo quella oscura, ma era così buona qua, al contrario dei francesi che bevevano pastissimo. Per farla buona ti esce buona, io prendevo il malto già pronto, capito, per la birra scura, per la birra la bionda, venera, ci sono tanti tipi di birra, e poi giustamente devi comprare l'acqua. Non è che devi buonire leva di un rubinetto, capito? Perché è molto sensibile la birra quando la fai. Basta una cazzata e si guasta. Guarda, l'acqua la devi comprare sempre. Anche in Sardegna noi acqua potabile per bere non ne abbiamo. Anche se ce la stanno facendo pagare a peso d'oro. Ma acqua potabile non ne abbiamo. E dilla quello che vende l'acqua del Tempio. Bello. Che c'è la mia biglia di sera? E io non dico un pareggio. La gente anda sotto la botte il rusito. Ma sì, la prendo, ma la scritta però La scritta è scritta a Tempio. Vai che andai sotto la botte il rusito a pienarli la tua botte. Quindi la voce la giubisci. Secondo me parla la villella dai loro. Ma lo sai dove c'è buona? Lì a Sennori fra, a Gonza. Non so se sai dov'è. Noi la prendevamo lì, che usciva proprio dalla roccia. Sì, anche io ci sono andato parecchie volte, anni fa, quando qua mancava un bell'acqua, per prendere l'acqua per bere. E anche nella zona di Nulvi c'è, scendere dalla roccia. Sì. No, secondo me quella lì è acqua, o di Osilo, boh, ci sta la gente nei veni, chissà di Ragonza. Non lo so da dove viene. Certo, ma 24 ore su 24 usciva, Infatti poi c'è il vascone sotto, te lo ricordi, dove lavavano i panni, non so se esiste ancora quel posto. Sì, che esiste. Certo che me lo ricordo, mi sono passato pure a bordo, c'è sempre. Non lo usano più come lavatoio, però l'acqua, io mi ricordo, noi la prendevamo, per campagna la prendevamo bene. Aspita, era buonissima, veramente. È ghiacciata da bui. Sì. Ma anche qua, perché da noi giù, alla Billella, non c'è il lavatoio grande, ma grande. Non lo usano più, però è sempre attivo. Mi dice che lo c'ha vendi, Luca? Quasi calori, oh yeah. Oggi non è come ieri, avanti ieri. No, dai, oggi già si sta bene, oggi, rispetto a ieri, oggi si sta meglio. E a Buglia si sta meglio. Ieri sapevo condizionato l'acceso, oggi invece niente, non l'ho acceso per niente. Arrivare alla riera, cazzo, per un caso si gribava. Non c'era neanche un filo d'aria a cera. Vabbè, lì Alghero, vabbè, anche se vicino al mare, però è una zona bassa. Eravamo lì vicino a... dove c'è l'ospedale, a fianco, non c'è quella pinetta, la passerella. Ma l'ospedale marino? Sì, in quelle zone lì ero. Cazzo, ma per un caso non si poteva fare. Capo. Già lo so. C'ero venerdì io lì. Sì, io c'ero giovedì, che ti ha già detto vera che sa che misurava la pressione dei gommi. Quella grassa. Porca di zacca, se non sono macchina di nuovo, tutta tanta rincoglionita era. Ma rincoglionita però, sono andato ma pigliato i documenti, mi ha detto di cosa devo fare lì, facevo visita di Arroyo Bertolo, e ha baitato, mi torna Rigosi, mi ha detto di si accomodi di curi, si sieda un attimo che dopo la chiamo, faccio scendere qua. Vabbè, hai detto, para chissà, e vedo un'infermiera che parata, ha ragionato con uno dei due bastoni. Ma che se ne è andata, vediamo chi sa dove, chi sa grassa. Quindi, dice, ma lei non devo parlare con la signora, ha detto che non va a scendere qua, si è scesa ma se ne è venuta andata, non ho parlato, ma come sapevo io chi era, chi non era quella lì. Dice, quando mi ha detto venga, ma prima della... la vreba, l'ha tagliato, mi ha portato un coso nel collo, dice va là su, faccio questa cosa sopra, se non sta sopra un capo ne decido io. No, ma guarda, la gente sta impazzendo comunque, sta impazzendo veramente. Poi tu cacci, poi tu coronavirus, ora che il capo non è sotto. Tutta la gente se ne ricappa a virus. Un gaggio. No, vabbè, no, non ci vuoi fare. Infatti adesso, Mi sento a vedermi, allora ti sono già a febbraio. Sì, allora avviene ancora il tempo. E devi tornare a Alghero. C'ho il diabetologo lì all'Alghero, mi hanno dato. Me l'avevano dato a Coso, a Ottieri. Io a Ottieri ho detto non ci va, non manco un barecato. Una volta devo andare a Ottieri. Quando ha detto me lo via a Camillo oppure vicino, no? Oppure a Sacher. A Sacher, se c'è la voce a Alghero. Dammi Alghero, cazzo di vicino. Beh, da te più vicino, sì. Cazzo sta io, ma sta Ottieri è un casino. Ah, Ottieri è lontano, Ottieri non è vicino. Appunto. Io compongo più Alghero, mi conviene, hai detto, no, lascia Alghero, non me ne frega niente. Allora, da quel camino di signorani cavato, questi sono macchie. Ah, se non sanno loro neanche cosa devono fare, non lo sanno neanche loro. No, ma adesso non ho perso l'ospedale sto qua, non so, non so. Cazzo, lo soffrendi tutti, e lo soffrendi che sono i dottori riusciti. Come non è un diabetologo, cosa riguscia? Ma non c'è neanche quasi America c'è lì fra. Sì che c'è. Ah, la che non lo muore. Ma cosa ne so qui? Oh, casino niente. Addirittura ci avevamo il medico anche per rinnovare la patente. Cazzo, figurati. Allora non mi più nulla, deve essere per forza a Sassari per fare i documenti. No, a Sassari no. Diciamo che per la patente non c'è cose qua, andiamo all'autocolla qua e ce la fanno lì. Io l'avevo fatta addirittura al palazzone di Piazza Castello, l'ho fatta. Cosa della patente, la revisione. Al grattacielo. Ed era un ex carabiniere, tuttora c'è sempre lui che le fa. Sì, già lo so. Perché ci andava un mio collega sempre lì. E chi cadichi paghi 80 euro ti fa tutto questo. Non devi fare né fotografie né nulla, ti fa tutto, la fotografia, stampa e ti fa tutto lui. Sì, sì, sì, come ha fatto a me l'ultima volta qua. Ma è stato bufato, mi ha detto, ma è stato bufato, non ci si accorge. Si è pesato, mi ha fatto la fotografia, mi ha domandato i documenti, mi ha fatto la visita, tutto quanto. Ha poi un poco, e l'altro mi ha dato, un buio mi ha dato, tutto a posto, arrivederci, aspetto la patente a casa. Sì, sì, tante apposta ti arrivo, anche a me ha fatto così. Adesso al 2000, al 2026 la devo fare io. 2026, no, io la dovrei fare tra 2 anni mi serve. Sì, ancora gennaio. Però adesso voglio fare, guardate la moto, devo andare lì a scuola guida, in via Tavolara, che c'è uno che conosco, e prendo quella per usare tutte le moto grosse. Praticamente questa qua me la ritirano e mi fanno un'altra patente nuova. Ok, lo ce l'hai per la moto? Posso usare solo il 125 fra. No, io ce l'ho tutte le patente. Posso usare qualsiasi tipo di moto. Ma tu c'era il cazzo da prima di dall'80 l'hai preso la patente. 81? È uscita dopo la legge che dovevi fare il patentino per usare tutte le moto. Ma con quella patente dopo i 90, dovevi avere dovevi usare solo il io perlomeno uso solo il 125, c'è scritto nella patente. Poi quelli che ce l'hanno dall'80 indietro ancora possono usare qualsiasi moto con la patente vecchia. Capo, tu pensa che a me me l'avevano ritirata la patente tanti anni fa, e poi c'era quella legge che la patente non davano la davano con la patente della moto. Quando mi hanno restituito la patente, gli ho fatto la revisione, ho fatto tutto, mi hanno restituito la patente e mi hanno dato solo la B. Loro non me l'hanno dato. Sono andato alla motorizzazione e gli ho detto, come mai a me mi avete tolto una patente? Come gli abbiamo tolto una patente? Non abbiamo tolto niente. Però guardi bene che mi ha tolto la... Hanno controllato tutto quanto, dice sì, c'ha ragione. È stato fatto un errore. Allora mi hanno ritirato, mi hanno preso la patente, ma se no mi hanno detto, dice, continui a guidare con quella, poi già la chiamiamo noi. E mi hanno chiamato e mi hanno ritirato la patente. No, di nuovo come ce l'avete. No, io adesso me la voglio fare, perché se voglio prendere qualche motocarro, quelli il poker, 4 assi come lo vuoi chiamare, è un 600 e non lo posso usare, e quindi me lo prendo almeno se in caso devo prendere questo motocarro qua la posso già usare. Capo, sì, se per lavoro ti conviene prenderla, no, non sarà neanche difficile prenderla, là. Ah, va, devi fare solo la guida, non devi fare di cose, di esami. Ah, no, sicuro sì. Sì, sicurissimo, fai solo le guide. Ah, boh, non lo so. Non lo so. Vabbè, se sono solo la guida allora è più facile. Fai solo la guida perché ce l'hai già la patente. Se uno non ha la patente deve fare l'esame e tutto quanto. Sì, ho capito. No, non lo sapevo quello. E così, infatti, devo pagare solo i versamenti con 2 marche d'Apollo, 80 euro, è tutto. Ecco, è buono, buono. Luca, dormito chi sei? Sparito. Non c'è nessuno. È un grido, non entra nessuno. Non c'è nessuno, se non entra. Ecco. Ehi, vabbè, cosa ci vuoi fare? Io me ne salgo sempre qua, me la accendo, la tengo bassa, la tengo, se entra è buono, se no pazienza. Sì, adesso con questo caldo fa, vedrai che in inverno penso che qualcuno in più già entra, non tanto, però qualcuno già entra. E in inverno sarà come sempre. Adesso tutti quelli che c'erano prima sono spariti perché sono entrati a lavorare, sono rientrati tutti quanti, è tempo molto di meno. Sì, per il fatto del coronavirus ce n'erano di più perché erano tutti fermi, non potevano uscire a lungo, è normale che la gente c'era. Sì, ma è entrata troppa mondezza però. Pensa tu. E poi quella roba lì io... Quale roba? Quello con l'affare hai preso tu? Sì, vabbè, anche io lo devo ritirare. Deve arrivare, ecco. Ah, era, dimmi una cosa, Filippo si chiama questo qui? Sì. È quello che avevo contattato io, ci avevo parlato io con quello. No, io prima stavo facendo... un'altra mi stavo facendo, poi l'ho mollato perché non mi piaceva com'era, l'ho mollato e poi ho provato questo. Sì, l'ho contattato io a quello lì e lo dovevo prendere io, solo che poi non l'ho preso perché non so cosa voleva in più o cosa ci aveva, perché mi sembra ci aveva dei graffi sulla scocca, sulla scocca aveva detto. Dei graffi? L'ho visto, è un piccolo ma invisibile, un graffietto invisibile. Sì, mi ha detto che c'ha qualche graffio sulla scocca e poi non c'aveva né cose, ma non nel libretto di manutenzione né nulla. E cosa ne fai? Il libretto se lo fai tu te lo fai, se non ce l'hanno chi te lo vende. Io guarda, ce l'ho già tutto in italiano. Io ce l'avevo già la prima, siccome ce l'avevo già io quella radio. E c'ho anche il libretto. Questo che ho preso io c'ha cioè il suo in mano, lo stesso, originale col suo libretto, con il suo libretto di istruzione. Ma qual è preso? Quello che c'era appoggiato sopra un coso di occhiali? No, c'era la scatola sua e la radio. Ma la radio dove era appoggiata? Sul coso nero? No, sì, era appoggiata su delle cose, non lo so, si può un pacchetto di sigarette appoggiata così e c'era la scatola dietro, sui bighi era. E allora non è quella, non sarà quella che ho visto io, che stavo facendo l'altra io, non lo so. No, questa era sui bighi e c'era la scatola sua a mano originale. Il filtro e il microfono, un microfono suo originale. C'era il microfono, ma sotto dove era appoggiata la radio? C'era un coso nero sopra la radio, appoggiato. No, sopra la radio non c'era nulla. Allora non è quella. Adesso vediamo, arriverà in questi giorni. Io l'ho mollata perché non c'aveva neanche il cavallettino per quello in acciaio, non c'aveva per appoggiare. L'ho mollata per quello. Non si lamenta, che si rivende. Io lo devo comprare, se vedrà la radio. Ci sei? Sì, ci sono. No, stavo un attimino che sono al telefono. Va bene. Luca, ci sei? Sì. Caso che pari due, chiaro. Sì, già sarai una cosa. È sparito. Uiuia. E PMR, Ofra, come mi ascolti? Diciamo che del radio ti ascolto bene, segnale non ne hai. Vabbè, segnale mi interessa, perché anche la radio. Segnale perché così al minimo, vatti di uscita a zero, quasi. Perché non la aumenti? Ho provato a aumentare, adesso non so se mi ascolti di più. Ho provato ieri e l'ho trovato, dal pulsantino di su in alto di sinistra. Piace a vedere. Su che frequenza? Sulla Questa è il 446-080. Sì. Com'è? Niente. Sono in radio, segnale niente. La devo ancora aumentare. Guarda il segnale mio, sapete se ti arriva. Sì, arriva. Arriva? Sì, sì, è un grillo. Arriva. Eppa, ma che arrivi? Se non arriva quello, allora non arriva nessuno. Però quanto stai uscendo? Al minimo. Santiago 4. Ecco. Vieni qua che è meglio, vieni. Vieni che è più bello qua. Oh, Luca. Emanuele. Ecco, vai, mi devo allontanare che è arrivata mia moglie che devo andare a scaricare la macchina. Ciao. Ciao Luca. Ciao Mari. Già di bubù. Di ciù, vai di ciù. Ah, non ti piace? Cosa non mi piace? Ah, è Gianni. Ma ti ho detto, non vai di ciù, è bocca ieri. Cosa vuoi che ti fosse? È Giamari. Ma con te l'appello. E vabbè, da ci fai qualcuno. No, ci penso, se no lo entro, lo sapevo. E cosa ti posso fare io? Nulla sto, quello che mi dispiace è che ho speso da poco 55 euro per comprare l'antenna. Ma che ha fatto altro? Spendere 55 euro per l'antenna, ma per la macchina? E allora? Oh, yeah. Certo che non muove. Oh, yeah. E non sono Luigi. Mi hanno promesso di non comprare più nulla, invece ne ho comprato Superstar 3009, ne ho comprato la stazione base, poi ho comprato un microfono, un rosmetro barmetro. Certo. Oh, yeah. Ma cosa ne fai ad abbi di tutta questa cosa? No, lo sono trovato mentre mi serviva, perché io ce l'ho grande nella stazione e a misurare stazionare in macchina veniva male, quindi me ne ho preso uno più piccolo e me l'ho usato per misurare stazionare in macchina, capito? Sì, vabbè. Io ce n'ho uno grande e uno piccolino, con i cosi separati, con gli affari separati. Con gli strumenti, infatti, mentre no, metto come ce l'ho io, però non è piccolino il mio. Rimane medio, là. Oh, io ce l'ho piccolo, ce l'ho. Piccolo, sembra un portatile. E il mio costa sulle 50 euro, capito? Ma chi te ne costerà? Perché l'ho visto su cosa? Su eBay, ma ti costa 80 e più le spese di spedizione, quindi quasi 100 euro diventa. Allora sono andato benissimo, là. Sono andato benissimo. Ed è della Fayette, questo qua. C'è un antennino anche fuori, però non è che gli sia tanto... Sì, vabbè, già segnano bene, siamo noi che siamo siciliani. Se no prendiamo via, vabbè, queste cose qua, come le strumenti, non sappiamo stare, per spendere sui più, vabbè, saranno più per fritti, però l'idea di massimo è quella. Se poi naggiù uno grande, con gli strumenti che ci fanno... Cosa? Uno a destra e uno a sinistra. Io ne ho uno grande che si illuminano gli strumenti e tutto quanto, però non fa staccare dalla stazione perché c'ha i fili elettrici, poi devi staccare tutto quanto, lascia perdere, è meglio lasciare quello, prendere un altro. Così no, anda beh, anda. Già mi passa chi so che faccio. E sono riuscito a scenderla sì da 1 e 2 di stazionari. Di più non scende, io ho paura a tagliarla perché magari poi sale di più ancora e non riuscite a regolare. Ma quella della macchina? E allora? Quelle devi indovinare quelle. Quelle devi indovinare. Quella che ho io ne ho tre, ne ho. Tutti e tre a uno di stazionari e fanno. Vabbè. No, io quella che ho comprato è la mini turbo e quando l'ho piazzata ci aveva due di stazionari, come l'ho piazzata a due su tutti i canali, e allora ho cominciato prima con la chiave a brugola, alzarla, scenderla, niente da fare, sempre così rimaneva. Allora ho provato a tagliarla pezzo a pezzo, piccolini sì, di millimetri, e piano piano sono scese, sono rimaste a 1,3, 1,4 sul 40, sugli altri canali c'ho tutto 1,2, 1,2, 1,3 al massimo. No, io quella che ho io da, con lo stilo da 50 cm che è caricata, e quella lì è uno di stazionari mi dà. Sei stato fortunato, magari anche io una volta ho preso la Turbo 2001, l'ho piazzata in macchina, non ci muovevo manco l'altro. Appena ci muovevo in tutti i canali, anche nei canali altri. Quello è che se riesce a metterla bene, è cose che facciamo la massa bene. Deve dare uno di stazionari, deve dare, non si deve manco muovere. Oh, va bene, sì, no. A 1,3 va bene. Sì, va bene. Poi io ce n'ho una lunga 1,5 m, poi l'altra è 1,20 m, e poi l'altra ancora, anzi due, no, una è 1,20 m. E poi l'altra è ancora 1,10 m. Ma io sono sicuro che se ne mettono un altro pezzo la faccio scendere di più. Peccata, così la rovini poi. E quello che ho paura, che poi magari mi sciolgano di colpo, capito? Poi la rovini anche l'antenna. Io secondo me dipende dal cavo, dipende anche. No, io ho sempre tarate così con le antenne in acciaio. Se non tara dalla brugola, tara tagliando. Non c'è problema, quello l'ho sempre fatto e sono sempre andato bene. Allora ho mai toccato io l'antenna, dici? Non ho mai toccato. Se le mettevo sulla macchina e controllavo, erano sempre uno di stazionari. Beh, io non le ho mai toccate. Perché vuol dire che erano prettarate? Infatti, quando io una l'avevo comprata, le altre le ho trovate, Leo. Ah, trovate la moneta? Vicino al cassonetto buttate per terra e agiti tu e che gli ammisibili fanno una base. Ma coprite il capo? No, una era con il capo, l'altra invece era senza capo, però c'aveva tutto quanto c'aveva. Gabbiano, sì. E un altro, mica è Fabi Denni. Ah! Ciao, già, io li prendete, io li prendo dopo, dai. Poi, ciao, preceduta anche a te. Mi ha detto che in Piazza dei Cini quando buttavano la roba hanno trovato portati, nulla di roba, quando lavorano in punto. Di tutto c'è acciaffa, di tutto, non ho preso la acciaffa di tutto. Vero signor Marino? Io ti appoggio, è vero sì. Così io ne ho 1, 2, 3. Sono 3 beccati a toparto. Nuovi. Anzi, uno l'ho regalato, uno l'ho regalato anche in scatolato, era un 34 canali, in scatolato e sigillato, figurati. Hai tu? Lo so, ci trovo un po' di roba, io a Portobello vedo sempre quelli turbini di Porto Torre, scatti che li conosco perché venivano da noi anche alla Mondetta, eccetera. Sempre prendendoci roba stanno a Portobello. Perché ci buttano di tutto, ci buttano di tutto. Avevo un magazzino, hanno riempito il magazzino, figurati. Ok, riprendete il mese dopo che mi stanno chiamando, dai, riprendi di to. Ok. Se c'è meno che signor Marino, se ne avevamo gana, se non mi trovo prima. Non fare il gabbiano, la comunità di Matteo, dai, Tole. Non fare il gabbiano. vedi poi l'ho trovato Gianni, come va? Una scala grande, la base, che parecchio era grosso, che era legata quello del ghetto. Oh Mari, non sei centrato bene, ti sento strano nel radio. Dopo alto era forse. Sì, adesso va bene. Già, dire a Gianni che l'hai trovato con l'apparecchio grosso, però l'ho dato a quel tipo Alghero. Ah, il 680 era il tempo del 680 che non funzionava. Però già va via, il fusibile, c'era un fusibile dentro e il fusibile di fuori ha bruciato. La pilota ha portato 31 cattura e me l'ha portato da un'altra gascione. E tu l'hai riparato? Ha cambiato i fusibili che ci volevano, quello di dentro, ho dissaldato quello di dentro e gliel'ho messo. Ha sentito che lo stavo vendendo e si era pigliato subito, 600 euro l'ha aiutato. Oh yeah, localizzate. Poi va, me ne sono convinto a chi l'ha aiutato e magari mi si via. Vabbè, vuol dire che nel momento ti servivano soldi, te ne fatti soldi. Lui ci ha fatto per il pesca sul banco un bracciale pieno d'oro, pieno, 380 euro guadagnati. Me l'ho venduto al costo dell'oro, mi ho dato 380 euro, sicuramente ne valeva di più. Perché se mi ha dato 380 euro, vuol dire che valeva di più. Infatti, è così, ma purtroppo si acciappa, si vende, si biglia e si va zi. E andare. Si prende te, signor Mari. Dottore, che sto da uscire fuori, mi stavo chiamando, va. Se prendete voi, va, già sono più tardi. Lo sai cos'è, oh Gianni? L'oro è quotato in borsa, devi andare, devi controllare sempre a quanto è l'oro in borsa, capito? E se vai oggi ti danno 300 euro, magari se vai domani ti danno 500, capito? È come il rame e così via. Ok, già, riprendi e ti risposto, mi stavo chiamando, vai. E io, vabbè, dai, già siamo qua, ci vuole entrare, quindi siamo qua. Buona presa d'aria, così diciamo, avanti. Hai capito? Ci sentiamo, signor Marì, a dopo. Andare, purtroppo è così, non ci puoi fare nulla. Andare così, tanto, non ciamba nulla, non ciamba. Facendo quel lavoro ne trovi un bel di roba, ecco. Anche oro, tu vai. E c'ho pavadina puro, 20, 30, 50 euro, o su alla discarica quando era su a Osio, quello che c'era lì aveva trovato la busta piena di soldi. Lo so, era successo anche a Portottone, una volta c'era andata alla discarica a buttarci il cartone, e c'era questo uomo disperato che la moglie gli aveva buttato la busta dove aveva messo tutti i soldi, gli aveva conservati e faceva una cassetta, la moglie si è messa a fare ordine, ha pigliato i gacetti che venano in natale e poi se l'ha baizzato e gli ha buttato la busta e se ne vedevi i turchi cercando in mezzo alla mondetta. Oh, yeah. Alla ricerca erano, ma era giù ciga. Dopo che si ne è andato, dice come fa a trovarla quando ha buttato questa mondetta, come fa a trovarla? Come ti sei andato, hanno pigliato la bala meccanica, hanno cominciato a buttare mondetta. Si lascia a pemo, di. E invece non ha avuto nulla, magari non c'era la lampada. E chi lo sa, magari la bulletta che ce l'ha buttata si è tenuta su, tanto non so tu quelle robe. Infatti, purtroppo. Io cosa, il massimo che ho trovato erano 100 euro erano. Dai io che entriamo da trovare, se rivivimmo. Certo, era mentre. In carriera le ha acciappati, volete lui. No, dentro il cassone era. Dentro nel cassone. Come ha svuotato, era in alto. E non è come questo, magari mi davi a mano, mi ha comprato qualche cosa, senti che l'altro c'è tutto il mondo di là. Aspetta un attimo Gianni. Sì. Gianni, sono rientrato. Ecco, e quindi ma ci dà troppo di roba. No, io per dire quando scendevo nel garage a controllare, perché sai, ci sono anche i maleducati che buttano le bottiglie, tutte queste cose nel garage, dove sono parcheggi. andavo a controllare cosa, avevo la pulita eccetera, e una volta ho trovato 20 euro volando, se ne sei soccorso la tasca. Sì, 20 euro, grande. E... due mesi fa li ho trovati nel giardino qua, li ho trovati imbrigati. Io una volta ci avevo fatto con un amico, praticamente stavamo scendendo in Viale Umberto, noi eravamo ragazzini, allora ti parlo perché avevamo 17-18 anni, stavamo scendendo in Viale Umberto, questi due ci hanno detto datevi la catenina d'oro, questi ci volevano rubare la catenina, noi ce ne siamo scappati, eravamo bambini, c'erano ragazzini, loro erano grandi. E fatto sta che ci siamo messi a correre e siamo scappati, poi arriviamo al ponte e troviamo questo borsellino. E in più volando dei soldi, cazzo siamo fatti ricchi. Abbiamo fatto un bel dinare e questo borsellino c'era anche fumo, c'era un tocco di fumo. E praticamente c'erano soldi, abbiamo fatto, allora c'erano le lire e mi pare che c'erano 300.000 lire, una cosa del genere, siamo andati a campare a bere e poi ce ne abbiamo divisi piano. E lo sai di chi erano? Di quelli che ci stavano rompendo le balle, che ci volevano prendere la catena, di uno di qui. C'era documenti e tutto. Abbiamo preso i soldi, poi il portafoglio l'abbiamo scritto, mi dispiace, vi rendiamo il fumo perché non ce ne facciamo niente, le abbiamo messo la casetta delle poste e via. Certo. Sono andati bene, sono andati. E se siete disotto pure? Disotto, secondo chi lo prende gli tombano il fumo, cazzo, la risale subito. Perché praticamente c'era la fotografia, i documenti suoi, tutto quanto, capito? Infatti, se gli hai messo dentro la cosa delle... la cassetta delle poste, stava l'auto, hanno chiamato, io me lo bevo, no, che per... fumo. Un bel tocco c'era, era rotta il cartastagnolo, infatti non sapevo cos'era, lo svolto, odorato della fuga. E tu esci prima che ti lanciamo, il buchemo, il portafoglio, il divideva di là e via. Adesso se fosse stato un altro io l'avrei ritornato perché c'erano i documenti, ma siccome quelli ci hanno rotto le palle, quindi non era di durato. Hai fatto bene. Gliele tornano quelli delle poste insieme alla polizia. Ti richiamano, venite a prendervi il portafoglio. E poi se l'accompagna a Trento. Sì, sicuramente è intervenuta la polizia postale. Quando è così sì. Purtroppo, quando c'è più un bel di cosa. Non è andato via un magazzino di cosa, ma se cominciano a impazzire. E la porti al fiducio, con la coppa. Ah, roba che magari mette da parte, che ti serve un domani. Ah, ma la biglia invece di la rampo. Non se lo puoi accumulare tutto. Poi magari quando la zecchi non direi, però non puoi accumulare tutto quanto, è un casino. Oh, tutto no, ma una minima parte già me la son fatta. Poi un amico mio, Albino, che non si può entrare dentro un garage, mi va bene, non questa bocca. Ah, Albino, quello che lavora dove lavoravo io. A cattone. Se va a Lugaraccio tutto pieno, non fate manca a Bilaiana, ne va a Lugaraccio. No, non vede roba. Ma in macchina gioia è entrato vi si è appoggiato a che buccia? No, no. Allora vai da dire, voi mi rodi. Ma che brutta la lascia? No, oh. Ma con lo zingaro non ne lascia così. Non prende più l'amico mio. So di chi era fratello e so anche di chi era figlio. Sì, anch'io. Conosci il papà, la mamma, i fratelli, la Giulietta, conosci a tutti. Oh, se così, una macchina tutta zozza, brutta, tutta piena di gozo, non va bene però. Perché c'è la moglie anche. Certo, è la città che abbandona da così. Ma gli auguro la famiglia, la famiglia gli auguro, quasi in fissa. Dai, paga per la baita, ma non mi piace avere la macchina.